Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Iniziamo questa puntata particolare di Focus Economia con uno slittamento più che mai legittimo, visto che parlava il Presidente della Repubblica a Camere Riunite, con un inno che ci accompagnerà in questa puntata. Vista anche la festività, vorremmo raccontare che Italia era, da un punto di vista socio-economico, quindi mortalità infantile, potere d'acquisto, costo della vita, povertà, non solo i grandi dati macroeconomici, quella del 1861. Prima di tutto però, come sempre, vi do qualche aggiornamento. La borsa slitterà un po' oggi, comunque vanno bene sia Milano più 1,5%, Francoforte più 2,2%, Parigi più 2,40%, Londra più 1,70%. A far notizia oggi è stato soprattutto lo yen, perché lo yen ha toccato un nuovo record storico dai massimi dalla seconda guerra mondiale sul dollaro. Il ragionamento è molto semplice: visti i costi della ricostruzione, già ce l'ha spiegato il capo economista di Nomura 4 giorni fa, probabilmente molte banche e assicurazioni giapponesi smobiliteranno le loro attività non in yen, in dollari, e rimpatrieranno tutti gli asset denominati in yen. Ecco perché si rafforza la valuta giapponese a 78,85 sul dollaro. E ancora, che è un nuovo record, anche lo yen nei confronti dell'euro è forte, 110,5. La borsa di Tokyo questa mattina ha chiuso in calo dell'1,4%. Sul fronte libico, già il nostro GR vi ha dato gli aggiornamenti, ma va segnalato anche che il ministro del petrolio libico, Shukri Ghanem, ministro di Gheddafi, ha detto che la Libia ha un'ottima relazione con l'ENI. È una compagnia che lavora qui dagli anni 50, è tra le più importanti di quelle che operano in Libia. Scaroni è un amico, numero uno dell'ENI, porte aperte all'Italia. Ancora, sempre sulle notizie in breve, perché poi vorrei partire con il primo tema di apertura. Se il premier giapponese dice che sullo yen ci sono movimenti speculativi, sono stati scagionati oggi gli hedge fund, i fondi speculativi, dal crollo, anzi dai due crolli della borsa di Tokyo. Si è scoperto che in realtà non c'entravano nulla, loro stanno investendo in azioni nipponiche, attenti all'untore, e invece sono gli ETF, quei fondi che riproducono fedelmente l'indice, ad aver amplificato le perdite di Tokyo, rispettivamente del 6% e più del 10% di 2 giorni fa. Sul nucleare vi dicevano i nostri GR delle dichiarazioni del ministro Romani, che ha detto fermarsi un attimo e riflettere, quindi cambia leggermente l'atteggiamento del governo. Dall'America arriva la notizia invece che le banche che hanno ricevuto aiuti di Stato, i cosiddetti fondi TARP, per essere salvate dalla crisi, hanno ripagato questi fondi ormai al 99%. Dall'Europa la notizia invece che, secondo la Banca Centrale Europea, c'è ancora un alto rischio di una crisi dei debiti sovrani dell'Unione Europea. E tra i paesi OCSE l'Italia è quella che ha la spesa pubblica, spesa pensionistica più elevata, il 14% del PIL. Segnaliamo anche che oggi Terna ha inaugurato, laddove ha parlato il ministro Romani, un maxi cavo per collegare la Sardegna. Vi saranno dei risparmi di sistema pari a 70 milioni di euro, maxi cavo elettrico chiaramente. Allora, vorrei parlare tra una puntata un po' strana, poi arriveremo anche alla borsa, Fondiaria sai molto bene, più 5,50, Fiat Industrial più 4,20, Intesa più 2,90, ma insomma, respiriamo anche noi oggi, e lo dice uno che è palesemente raffreddato. Occupiamoci di cos'era questa Italia 150 anni fa, perché forse ogni tanto la memoria ci aiuta anche a capire un po' di più e a non cadere nei luoghi comuni. Molto revisionismo storico dice: ah, l'Italia, il sud sarebbe stato meglio senza l'unificazione con il centro-nord, oppure il sud era ricco, è stato impoverito dall'unificazione italiana. Allora, vediamo un po' di capire di che Italia si stava parlando nel momento in cui fu dichiarata unita. Thank you. Allora. Intanto ringrazio i nostri ospiti perché ci hanno raggiunto in collegamento Gianni Toniolo, docente di storia economica all'Università di Roma Tor Vergata. Buonasera professore. Buonasera. E grazie anche al presidente dell'Istat, Enrico Giovannini. Buonasera presidente. Buonasera. Che ci aiuterà in questo compito di ricostruire l'Italia attraverso i numeri e le statistiche, così evitiamo polemiche del sud e del nord. Innanzitutto partiamo con un ragionamento. Qual era l'immagine che permeava anche il sud nell'anno dell'unificazione? Questo brano è tratto, come immaginate, dal Gattopardo, il film di Luchino Visconti. Il libro uscì nel 1958 ed era di Tomasi di Lampedusa. Principe, anche se lei non ci crede, questo stato di cose non durerà. La nostra efficiente, moderna, agile amministrazione cambierà ogni cosa. Non dovrebbe poter durare. Ma durerà sempre. Il sempre umano, certo, uno o due secoli. E dopo forse tutto sarà diverso, ma sarà peggiore. Noi fummo i Gattopardi, i leoni. Chi ci sostituirà saranno gli sciacalli, le iene. E tutti quanti, Gattopardi, leoni, sciacalli e pecore, continueremo a crederci il sale della terra. Allora, professor Toniolo, noi abbiamo preparato una piccola scheda, e questo vale anche per Enrico Giovannini, che ricorda non solo le cifre, ma proprio la vita, quanto costava la vita. La cosa impressionante è che tutte le cifre che sentirete sono in euro correnti, cioè al netto dell'inflazione. E scoprire con quanto si viveva allora, nel 1861, in valori reali, non nominali, anche noi siamo rimasti quasi sconvolti. Vivere con 3 euro al giorno. Era questa la sfida con cui doveva confrontarsi quotidianamente la gran parte degli abitanti della neonata Italia. Il consumo medio pro capite del 1861 ammontava infatti a 251 lire piemontesi all'anno, vale a dire 1123 euro di oggi, pari a circa 93 euro al mese. Nelle regioni del Mezzogiorno la sfida è ancora più dura. A disposizione ci sono meno di 2 euro a testa, in una condizione che oggi verrebbe classificata di povertà assoluta. Quasi 2/3 della spesa sono destinati agli alimentari. Il menù quotidiano è a base di pane e pasta. Una volta alla settimana si mangia carne e un paio di volte i legumi. I soldi che restano se ne vanno in affitto, qualche vestito, carbone per riscaldarsi e olio per le lampade. Per il risparmio e gli imprevisti non rimane neppure un centesimo. 150 anni fa l'Italia è nel contesto europeo un paese povero e scarsamente industrializzato. Il reddito medio vale la metà di quello britannico, 2/3 di quello francese. La produzione di acciaio di tutto il paese è pari allo 0,4% di quella inglese e la produttività del lavoro è appena 1/3. Insomma, produrre lo 0,4% dell'acciaio che faceva la Gran Bretagna, ma soprattutto vivere con 3 euro al giorno, 3 euro di adesso, non l'equivalente nominale. Dicevo, professor Toniolo, com'era la vita quotidiana? Diciamo, parliamo di economia sociale. E appunto era una vita certamente povera, molto povera, oltre ai dati che avete giustamente ricordato, possiamo immaginare anche delle altre condizioni di vita della gente che erano tipiche di paesi che oggi probabilmente sono i più poveri del mondo, forse non si trovavano nemmeno in quei paesi. Pensiamo a una speranza di vita alla nascita di circa 30 anni. 30? 30, 30. E pensiamo che ci fosse una mortalità infantile nel primo anno di vita tra i nati vivi di circa 1/4, cioè un quarto dei bambini moriva nel primo anno di vita. Gli italiani erano malnutriti, in media no, mangiavano circa in media 2500 calorie, e però c'era una grande inequalità nella distribuzione di queste calorie. E noi stimiamo che circa il 30% degli italiani avesse meno a disposizione meno di 2000 calorie al giorno, quindi può essere considerato, per gli standard dell'epoca soprattutto, in cui era importante l'energia per il lavoro manuale, sottonutrito. E tra l'altro fa impressione il dato sulla mortalità infantile. Lei ricordava, nel primo anno di vita era altissima, il 290 per mille. È una media che si ritrova in alcuni paesi africani in questo momento, per cui per far capire di che Italia stiamo parlando e perché poi quell'Italia lì, quando emigrò, quando gli immigranti italiani andavano in America o nel Sud America o in Australia, ma un po' dopo quello, venivano trattati alla stregua di terzo mondo quasi, diciamocela tutta. Forse molti di noi se lo sono dimenticati, soprattutto al nord. Presidente Giovannini, la differenza tra noi, cioè questa era la differenza, diciamo, la variabile socio-economica, la differenza tra noi e il resto d'Europa, in realtà com'era e quando è che possiamo parlare di un punto di svolta in questi 150 anni? Cioè un'Italia che, anche se non superando la Gran Bretagna o la Francia, ci si avvicina a livelli accettabili. L'Italia all'epoca, come ha ricordato il professor Toniolo, era considerato un paese tra i paesi europei sottosviluppato, ed è soltanto in realtà nel Novecento e poi con il grande balzo dopo la Seconda Guerra Mondiale che l'Italia recupera posizioni e si consolida quel modello italiano, grazie al miracolo degli anni fino agli anni 50 e poi anni 60, che ha reso l'Italia una delle grandi potenze economiche mondiali. Dobbiamo ricordare che ci sono voluti quasi 30 anni, 40 anni per riuscire ad avere un reddito dal 1861, a farlo crescere intorno alla fine, ai primi del Novecento, di un 20%, ma poi solo tra il 50 e il 60 il reddito in 10 anni cresce di quasi il 100%, il reddito pro capite, e poi tra gli anni 60 e gli anni 70 cresce di un altro 60%. Cioè il vero distacco, il vero salto che l'Italia fa, e quindi l'avvicinamento, come ha ricordato anche il Presidente della Repubblica nel suo discorso, avviene nel dopoguerra ed è con l'integrazione europea che indubbiamente, con l'apertura ai mercati internazionali, che anche l'industria italiana riesce a fare il grande salto. Quindi, Presidente Giovannini, lei ci sta dicendo che il recupero dal 1860, lasciamo stare il periodo della Prima Guerra Mondiale e della Seconda Guerra Mondiale, che chiaramente hanno avuto, ma non è stata tanta roba, cioè c'è stato un recupero, ma comunque stavamo parlando in Italia ancora a un livello, diciamo, con distanza dalla Gran Bretagna, dalla Francia, quasi simile a quello che adesso ha il Nord Africa rispetto all'Europa? No, era certamente, si era ridotto, non dobbiamo dimenticare che l'infrastrutturazione fatta nei primi del Novecento e poi durante il periodo fascista aveva indubbiamente fatto fare all'Italia un primo salto importante. Ma dicevo, in termini di reddito delle persone, quindi il cambiamento nella qualità della vita, negli stili anche di vita, avviene successivamente. Do soltanto un dato che non è economico, ma che invece è sociale, per dirle quanto poi la società italiana era evoluta. Nel 1867 il 70% delle persone che si sposavano non sapeva scrivere, fondamentalmente. Sì. E nel Novecento questa percentuale scende al 40%, e nel 1940, cioè subito intorno all'inizio della guerra, al 5%. Quindi vediamo che, al di là della crescita di reddito, la società italiana era cambiata profondamente. Le differenze nord-sud da un punto di vista socio-economico e anche statistico, perché questa è la polemica che è montata in questi mesi, questa scheda ci ricorda quali fossero, numericamente parlando, le differenze tra nord e sud del paese, allora, ma anche come si sono mosse nel corso dei decenni. Nel 1861 il divario economico tra nord e sud esiste, ma è contenuto. Il PIL pro capite dell'ex regno delle due Sicilie è inferiore a quello delle regioni settentrionali di circa il 10%. Gli abitanti del mezzogiorno sono più poveri, hanno uno stato meno efficiente, ma pagano meno tasse, 16 lire a testa contro le 24 lire del regno sabaudo. L'unificazione riuscirà ad innescare un processo di industrializzazione e ammodernamento anche nelle regioni del sud, ma nei 150 anni seguenti la distanza con il resto del paese non sarà mai annullata e tenderà anzi ad accentuarsi. Raggiungerà il suo apice nel 1951, quando la ricchezza prodotta da un abitante del sud è pari al 47% di quella di un connazionale del nord. Nei successivi 20 anni il gap si riduce e nel 1971 il rapporto è del 67%, ma la distanza tornerà poi a crescere. Oggi il rapporto tra il PIL pro capite è al 59%. Se il divario territoriale rimane un nodo irrisolto, la rincorsa economica può dirsi invece riuscita. L'Italia è diventata la 7ª economia al mondo e i suoi abitanti possono contare su un PIL pro capite di quasi 25.000 euro. La capacità manifatturiera e di export è seconda in Europa solo a quella tedesca. La spesa media per i consumi ammonta oggi a 1.280 euro a testa mensili, di cui meno di 500 destinati a cibo e abitazione. Sulla nostra rete stradale, passata dai 27.000 km del 1861 ai 160.000 odierni, circolano 36 milioni di veicoli. Nei primi anni del Novecento avremmo potuto contare in tutto il paese appena 2.100 auto, 45 autobus e 10 autocarri. E alcuni possono anche essere invidiosi di 10 autocarri in tutta la rete stradale del paese o solo 2.100 auto. Presidente Giovannini, la cosa che a me ha fatto impressione nell'analizzare questi dati è che sembra obiettivamente che la differenza tra nord e sud fosse minore nella data dell'Unità d'Italia, cioè 150 anni fa, e poi si è andata via via ampliando fino al boom economico che, come ricordava la scheda, tocca il picco massimo, si è un po' ridotta e adesso comunque siamo sempre a un sud che produce il 60% di quello che produce il nord del paese. È forse questo il fallimento più grosso della storia dell'Unità del paese? È uno dei fallimenti. L'altro è quello di non essere riusciti ad aumentare il tasso di occupazione, di attività in generale, e quindi dare la possibilità a molte più persone di contribuire alla vita economica e sociale del paese. Abbiamo dei tassi di abbandono scolastico ancora al 20%, un valore molto alto rispetto a quello europeo. Tornando alla questione del sud, certamente la qualità della vita è migliorata in tutta Italia, anche al sud. Il divario resta ed è un divario che purtroppo è cresciuto negli ultimi anni perché le politiche di infrastrutturazione condotte negli anni 60, 70 e in parte anche 80 non sono riuscite a generare quello che gli economisti chiamano crescita endogena sufficiente a far sì che il sud recuperasse la distanza. Non dobbiamo però dimenticare che molti altri paesi hanno i loro sud e forse la differenza fondamentale sarà proprio nel modo in cui sono stati affrontati. Pensiamo alla Germania, come ha recuperato, come ha investito dopo gli anni dell'unificazione con le regioni dell'est, portando appunto le regioni dell'est a un livello molto più avanzato di quelle in termini relativi del nostro sud. Allora, mentre confermo a chi ce lo chiede al 349-238-6666 che anche la spesa per istruzione era superiore nello Stato Sabaudo, era 4 volte quello che non spendesse il Regno delle Due Sicilie, quindi chi sostiene che il Regno delle Sicilie fosse una specie di paradiso rispetto alla distruzione avvenuta dopo dovrebbe guardarsi i dati storici. Però, Toniolo, c'è quest'idea in alcuni storici revisionisti che senza l'unità il sud, la macroarea del sud Italia, avrebbe conosciuto un destino più prospero e anche forse il centro-nord. Beh, intanto questa non è per niente un discorso molto revisionista, nel senso che la polemica tra nord e sud data dalla fine dell'Ottocento, quando Giustino Fortunato appunto sosteneva che il nord e il sud erano più o meno in pari dal punto di vista del reddito pro capite e altri indicatori, e poi l'unità avrebbe creato un divario che prima non c'era. Io credo che questo non sia, i dati che voi avete appena letto sono abbastanza corretti. Possiamo prendere altri indicatori non immediatamente economici ma fortemente correlati al reddito. L'analfabetismo era il 90% nel Regno delle Due Sicilie contro un 60% in Piemonte e in Lombardia. L'altezza delle reclute era inferiore, questo è un buon indicatore del benessere, un buon indicatore antropometrico. La mortalità infantile che abbiamo citato era maggiore, la speranza di vita era minore nel sud, quindi una serie di indicatori che non lasciano dubbi che il sud fosse meno sviluppato del nord. Quanto all'ipotesi che non unendosi avrebbero conosciuto destini migliori? Beh, lì bisogna immaginare qual è il controfattuale, come alcuni dicono, cioè cosa sarebbe successo se fossero rimasti disuniti. Bisogna pensare che quando l'Italia si unì, pur essendo pro capite un paese povero, data la sua dimensione demografica, diventò una delle principali economie del mondo. Questa è una cosa che spesso non si considera, ma l'Italia era già parte del G8, G9, G10, quello che si vuole, al momento dell'unificazione. Che cosa significa questo? Che piccoli paesi che fossero rimasti disuniti avrebbero dovuto avere una strategia di sviluppo ben diversa da quella che hanno avuto, avrebbero dovuto contare solamente sulle esportazioni, solamente sul mercato esterno. Ora, posta la posizione geografica, la cultura, la tradizione dell'Italia, è difficile immaginare che avrebbero potuto fare nella prima, nella seconda globalizzazione, non lo so, quello che hanno fatto l'Olanda, il Belgio, altri paesi piccoli, fortemente orientati all'esportazione. Il grande vantaggio dell'unificazione è stato quello di creare un mercato nazionale, un grande mercato nazionale dove sono state fatte delle cose importanti, le opere pubbliche, la moneta, la finanza, che avevano un peso a livello nazionale e mondiale, e dove le produzioni del nord, in particolare certe produzioni industriali, potevano trovare un mercato che creava quelle economie di scala che a sua volta consentivano anche la esportazione. Questo l'abbiamo visto fortissimamente nel boom economico. 50, sì, 50. Da lì però l'accusa anche di alcuni storici meridionalisti che dicono questo però ha significato che il sud era solo mercato e non anche sviluppo. Mi dica una cosa. Non è solo mercato, se non c'era un potere d'acquisto non avrebbero potuto svilupparsi. Tanto è vero che non venne chiuso il divario, ma il sud si sviluppò in modo straordinario anche durante il miracolo, e anzi durante il miracolo fu allora che il gap venne ridotto, chiuso, sì. come avete detto voi. Ecco, qual era la vita dell'artigiano napoletano? Perché lei un tempo fa cito anche una cosa, nel periodo di cui stiamo parlando, 1860 o qui, insomma, decennio immediatamente successivo. Beh, mi lasci fare un po' di propaganda. Abbiamo fatto a Tor Vergata, sotto la guida di Giovanni Vecchi, una grande ricerca sui bilanci familiari che adesso verrà presentata a un grande convegno che verrà fatto in giugno. E una famiglia napoletana di 4 persone aveva tipicamente poteva disporre di 240 euro al mese. 240 euro al mese per una famiglia di 4 persone, certo, a valore reale, a valore corrente. 150, certo. Per mangiare, carne di montone, frutta una volta alla settimana, forse 2 o 3 volte legumi, e il resto era pane e pasta. Poi restavano 100 euro, pensate, 100 euro potere d'acquisto attuale per tutto il resto, per 4 persone, quindi per il carbone, per l'olio, per l'illuminazione, e anche per quel bicchiere di vino che il capofamiglia si doveva bere all'osteria. No, sono cifre che fanno impressione perché, ripeto, sono valori attuali, sì, e sì. Quindi al netto dell'inflazione pensare di vivere con 240 euro in 4. Quindi madre. Siamo poco sopra la linea di povertà attuale del terzo mondo, certo. Sì, sì, sì, sì. In 4 con 240 euro, di cui 140 se ne andavano per mangiare, e poi 100 euro per tutto il resto. Ecco perché poi questo paese ha nella memoria storica il senso della povertà, ma questo ci porterebbe troppo lontano. Andremo a ragionare sui consumi di questo paese. Invece, viva l'Italia, lo diciamo con forza, e grazie soprattutto al presidente dell'Istat Giovannini e all'economista Gianni Toniolo. E buon compleanno all'Italia. E buon compleanno all'Italia. E a vederci al Mostra delle Regioni, dove capiremo il futuro della storia italiana. Che voi avete organizzato una Mostra delle Regioni molto importante come Istat. Beh, non l'abbiamo organizzata noi, ma abbiamo certamente contribuito a questa iniziativa che verrà avviata al Vittoriano il 31 marzo, con la presenza del Presidente della Repubblica, in cui ci saranno grandi plasma che mostreranno dati in movimento proprio per riuscire a capire come l'Italia si è evoluta nel corso degli ultimi 150 anni. Per quello che riguarda i mercati, abbiamo già dato l'aggiornamento in apertura, comunque più 1,46% Milano, più 2,20% Francoforte, più 2,40% Parigi e più 1,70% Londra, euro quota 1,40, iena record storico dalla seconda guerra mondiale sul dollaro a 79, scambiato, e 110 invece con l'euro, molto bene Fondiere Assai, più 5,54%, ci sono ipotesi di un ingresso del gruppo Unicredito ulteriore, quindi di una presa di responsabilità, chiamiamola così, del gruppo Unicredito dentro Premafin dopo le dichiarazioni di oggi di Palenzona. E ancora Fiat Industrial più 4,20 dopo le voci di una fusione tra Iveco e Daimler Trucks, Intesa più 2,90, in recupero altri titoli Exor più 2,80, Steam Electronics più 2,70 e Prismian più 2, e 70% anch'essa. Chi dice bello schifo di puntata, chi se ne frega dell'Italia, parliamo di imprese e mercati. Guardi, non fa altro che spegnere oggi, domani torniamo a parlare di imprese, mercati, borsa, non c'è problema. Una volta ogni 150 anni si può parlare anche della storia di questo paese. E allora, però, torniamo all'attualità e occupiamoci di quello che sta capitando nel nord-est, nella zona tra Vicenza e Verona. Allora, stanno migliorando le previsioni del tempo e anche la situazione dopo gli allagamenti in Veneto. Le esondazioni, il pericolo di esondazioni è stato, in questo momento si sta riducendo, a Soave l'acqua è rientrata nel Tramigna, mentre sono segnalati livelli idrometrici ancora elevati nel Padovano. E però è polemica dei sindaci, è polemica di alcuni sindaci che dicono attenzione, insomma, non ci avete aiutato. E allora ringrazio per averci raggiunto in collegamento il presidente, che tra poco tra l'altro sarà ospite anche Giuseppe Cruciani, della Regione Veneto, Luca Zaia. Buonasera. Buonasera a tutti. Sentiamo il sindaco di Vicenza, Variati, che cosa ha dichiarato ai nostri microfoni. Purtroppo dall'autunno passato, cioè dal primo novembre, i lavori di laminazione, cioè del bacino di laminazione, quello che dovrebbe servire per sgonfiare il fiume, non sono ancora partiti. E non sono partiti perché sono in carico alla regione, e non sono partiti perché ci sono problematiche burocratiche. In generale si capisce come una città non può restare sotto scacco di 12 ore di pioggia. Allora, questa è la dichiarazione del sindaco di Vicenza. Presidente Zaia, al di là del fatto che siamo tutti contenti che stia migliorando la situazione, lei sa come Radio 24 ha seguito quei drammatici giorni dell'alluvione a Vicenza. Come mai i sindaci si lamentano del fatto che i lavori sugli argini non sono stati fatti? Ha inciso di nuovo la burocrazia a livello nazionale oppure vi siete presi in ritardo, come si dice a Roma? Prego. No, guardi, nessun ritardo, perché questa è l'alluvione che ha dato dimostrazione esemplare della rapidità. Innanzitutto, per fare i lavori ci vogliono i progetti, i capitolati, le gare. Questo lo prevede la legge italiana, non è un'invenzione del sottoscritto. Ma a prescindere da questo, l'alluvione di questi giorni non c'entra nulla con i lavori da fare. In questi giorni semplicemente c'è stata tanta piovosità che ha superato il livello degli argini, per cui l'acqua è uscita. Per cui, se non avessimo avuto l'alluvione del ottobre scorso, sarebbe comunque accaduta la stessa cosa. C'è da dire che rispetto a quell'alluvione c'è una componente in più: il terreno è assolutamente saturo di acqua, per cui le falde sono altissime, per cui assorbe meno acqua, per cui tutta l'acqua che cade oggi, purtroppo, in virtù di questa piovosità che ci stiamo trascinando da mesi, va a finire direttamente nei fiumi. Quando Variati dice e ancora non si sono fatti i bacini di laminazione, vorrei spiegarlo agli ascoltatori Radio 24, non è che stiamo parlando di chiamare un escavatore e far due buche, stiamo parlando di centinaia se non di migliaia di ettari da trasformare in una mega diga. Non è che lo possiamo fare in 4 mesi, visto e considerato che in Veneto non si è fatto negli ultimi 50 anni un lavoro del genere. Ci vogliono le autorizzazioni, i progetti, come al solito. Peraltro io ho un buon rapporto con il sindaco Variati e lui giustamente poi ha detto sì, mi rendo anche conto che poi c'è una burocrazia. Il bacino di laminazione, tengo a ribadirlo, si tratta di decine e decine, centinaia di ettari di proprietà altrui, cioè dei singoli cittadini, che vengono destinati a una sorta di diga temporanea. Quindi non trasformiamo questi concetti per il cittadino come della serie, non bastava andare lì con un escavatore a scavare una buca. Ecco, ma perché secondo lei i sindaci di un territorio comunque responsabile hanno preferito o comunque scelto di polemizzare sui lavori in ritardo, i lavori non fatti, i lavori o gli attori in sonno, quelli che avrebbero dovuto invece attivarsi? Ma guardi, allora precisiamo che l'alluvione di questi giorni non c'entra niente con i lavori da farci, perché non è che è uscita acqua da argini rotti, è uscita acqua da sopra gli argini che c'erano. L'alluvione di Soaven è un esempio. Soaven non si è allagata perché c'era qualcosa di rotto e per cui si è formata una falla e quindi l'acqua è uscita. E il problema dei lavori sono lavori finanziati dal sottoscritto in programmazione che si faranno alla volta di aprile, avremo i cantieri. Questo è previsto dalla legge con tutte le procedure di urgenza. Guardi, anche all'Aquila, voglio ricordarlo a tutti, si sono fatte le gare per fare le case. Se non si fanno le gare in Italia si va in galera. Poi non me lo dicano alcuni sindaci, i quali hanno avuto da me i soldi dopo 47 giorni e non sono stati in grado di spenderli tutti. Non voglio generalizzare, ma ce n'è più di qualcuno che dopo mesi ancora non aveva dato i soldi ai suoi cittadini. Ma secondo lei avevano la coda di paglia allora? No, ma sai, in Italia c'è uno sport nazionale che è quello di manzonare una memoria, dagli all'untore che va sempre bene, però i cittadini non debbono essere trattati come degli imbecilli. Ai cittadini si dice che l'alluvione di ieri, dell'altro ieri e di oggi non c'entra niente con la vecchia alluvione, con i lavori della vecchia alluvione. I lavori della vecchia alluvione stanno andando avanti secondo le procedure di legge, perché i cittadini sono i primi a chiederci legalità, e allora per dare legalità bisogna fare le robe fatte bene. Mi scusi, le risorse, lei sa, questo è un programma che si occupa di economia, noi ricordavamo circa 2 miliardi e mezzo necessari per mettere in sicurezza, mi riferisco al Bacchiglione e alle altre aree, quindi non a quello che si è allagato ed esondato in questi giorni, ma a quello che è successo lo scorso autunno. Per cui mi conferma che la cifra di 2 miliardi e mezzo, e quanti ne avete ricevuti? Ma guardi, noi abbiamo 1 miliardo di danni imprese e famiglie, abbiamo ricevuto 300 milioni di euro e poi abbiamo 2 miliardi e mezzo di euro di risorse necessarie per fare tutti quei lavori che non sono mai stati fatti nella storia. Cioè, quando il sindaco di Vicenza dice manca il bacino di laminazione, vuol dire che manca centinaia di ettari destinati a una diga artificiale per trattenere l'acqua in più che si ritrova nei fiumi che inevitabilmente scaricherebbero nel centro storico della città. Ma per fare queste opere ci vogliono in alcuni casi risorse che non abbiamo. In altri abbiamo le risorse e stiamo risolvendo conflitti che si trascinano anche da 30 anni tra sindaci. Lo registri bene, 30 anni tra sindaci. Io ringrazio lei, dottor Barisoni, e Radio 24 per l'eccezionale lavoro che avete fatto al nostro fianco, perché abbiamo raccolto, oltre a queste cifre, 5 milioni e rotti di euro di beneficenza, di versamenti dei cittadini, che ringrazio anche per vostro tramite. No, e noi ci mancherebbe, lo facciamo per tutti, ci sembrava importante, visto che c'era un po' di distrazione in quei mesi, a fine ottobre, inizio novembre su Vicenza, ci sembrava importante ricordare che non ci sono terremotati, alluvionati di serie A o di serie B, sono tutti uguali in questo paese, nord, centro e sud. Mi dica solo una cosa, però non ho capito, il miliardo che serve per le imprese avete ricevuto 300 milioni, ma i 2 miliardi e mezzo che servono per le opere, lei quanto ha in cassa, per far capire a tutti, diciamo? Guardi, la ringrazio per questa domanda, io semplicemente sto utilizzando i 300 milioni che andrebbero sul conto del miliardo, un po' per liquidare danni imprese e famiglie, ovviamente facendo anche i controlli ho già liquidato 100 milioni di euro, che non sono poi pochi, e un po' di questi 300 milioni, in attesa che arrivino risorse, sto destinando a opere infrastrutturali che non c'entrano niente con i danni ad imprese e famiglie, ma come farebbe un buon padre di famiglia, dice vabbè, ti pago l'allagamento dello scantinato, però utilizzo anche un po' di soldi per metterti a posto l'argine vicino a casa, sennò il tuo scantinato tornerà sott'acqua ad ogni... Quindi lei mi sta dicendo, Zaia, che in tutto sono 3 miliardi e mezzo e per ora lei ha a disposizione e sta cercando di smistare 300 milioni? 300 e mi lasci dire 5 milioni, 300 e 5 milioni, visto che ci sono anche i 5 della beneficenza. Ma gli altri, non so, lei con Tremonti immagino abbia parlato, quando arriveranno? Ma guardi, noi stiamo facendo pressione, stiamo tentando anche di trovare delle modalità per portare a casa ancora risorse. Io spero che ci sia un segnale. Al momento non, all'appello non c'è alcuna risposta. Per questo mi agito quando vedo sindaci che protestano per il nulla, quando la vera protesta sarebbe da fare per portare a casa i soldi. Ma lei cosa è disposta a fare per portare a casa i soldi? Adesso immaginiamo che magari... Guardi, io sono disposto a difendere i veneti con tutte le mie forze, perché io rappresento i veneti e a Roma ci vado tutte le settimane e tutte le settimane vado a parlare di risorse. Del resto devo anche dire che questo governo ci ha permesso di avere dopo 8 giorni 300 milioni di euro, il che non sono briciole in tutta questa partita. Comunque ce la faremo. Assolutamente no, è che si sono poi fermati lì. Mi scusi, visto che lei citava il Veneto, Mi conferma, visto che c'è una sentenza della Corte Costituzionale che dice che per le centrali nucleari comunque bisognerà avere il parere positivo delle regioni, lei ha detto, Nicky Vendola ha detto in Puglia devono venire con i carri armati per farci costruire una centrale nucleare. Lei mi ricorda, è stato uno dei primi 2 o 3 giorni fa a dire mai in Veneto, me lo conferma? Sì, sì, ma io non l'ho, guardi, mi perdoni se la coraggio, io l'ho sempre detto, cioè non 2 o 3 giorni fa, nel senso che l'ho detto in campagna elettorale in tempi non sospetti. Per cui non è, anche perché il Veneto, a differenza di altre regioni, peraltro ha anche un bilancio energetico che è di assoluta autosufficienza, nel senso che con l'entrata in vigore della centrale di Porto Tolle noi abbiamo assolutamente la produzione di quello che consumiamo. Grazie, poi sarà ospite, dicevo, anche di Giuseppe Cruciani. Grazie al governatore del Veneto Luca Zaia, da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata. Focus Economia torna domani. Viva l'Italia! Radio 24. La passione si sente.